Passava e niente sapeva, le ore erano forti contro e a favore, in solo momento non cambiava tutto, l'ora eri distante già da un po'. Fossi stato qualcosa di chiaro, pensa quante cose riuscivi a fare, vento eri forte, tanto da spostare, ma invisibile, un vuoto senza nome, sembrava semplice. Senti.